lo dico in ordine, non so in quale ordine, ecco, dato che non sono il presidente del consiglio provinciale, dottor Alessandrini, l'assessore all'istruzione e alla cultura, dottoressa Conci. Lascio subito la presidenza della mattinata, dato che i due coordinatori che di solito appunto coordinano le varie sezioni della settimana di studio stamattina sono anche relatori e quindi sia il professor Weinert che io siamo così impegnati come relatori. Abbiamo chiesto al presidente del consiglio scientifico e direttivo, secondo il nuovo nome, dell'Istituto Storico Italo-Germanico, il professor Elze, di presiedere la seduta della mattinata. Il professor Elze, poi, questo siamo estremamente contenti, nel marzo scorso, è stato anche dottore honoris causa dell'Università di Trento in giurisprudenza, quindi ha una doppia funzione nella sua presenza. Grazie a tutti. Wagen, dass Professor Ferrari der Präsident des Instituto Trentino di Cultura ist, des Dachinstituts, unter dem sich zwei Institute nebeneinander befinden, das Instituto Storico Italo Germanico, das heute dieses Seminar veranstaltet, und das Instituto di Scienze Religiose unter Monsignor Roger, das am 25. September einen internationalen Kongress über das Konzil von Trient organisiert. Die Tatsache, dass die Provinz Trient ein eigenes Kulturinstitut hat, von großem Umfang und großer Wirkung, ist der Provinzautonomie zu verdanken, die auch in Italien nur noch eine andere Provinz hat, nämlich die Provinz Bozen. Das Instituto Trentino di Cultura ist also unser eigentlicher Hauswerk. Wir sind seit 1986 in diesem Gebäude, das ursprünglich im 12. Jahrhundert errichtet worden ist, als ein Hospital der Kreuzbrüder und im Ende des 16. Jahrhunderts von den Kapuzinern übernommen wurde. Dann war es Krankenhaus, Regierungssitz und schließlich also Sitz des Trentiner Kulturinstituts. Professor Ferrari hat uns also begrüßt als der eigentliche Hausherr und wir sind ihm dankbar, dass er dafür hergekommen ist. Ich habe aber nun auch noch zwei Begrüßungen von außerhalb vorzulesen. Das eine ist die vom Erzbischof von Trient, Giovanni Maria Sartori, ein Brief an Professor Prodi, illustrissimo professore, la ringrazio vivamente per avermi invitato alla 38ª settimana di studio dedicata quest'anno al Concilio di Trento e il Moderno. Esprimo a lei e ai suoi collaboratori il plauso più vivo per il tema che ha scelto, che si inquadra ottimamente nelle celebrazioni del 450° anniversario dell'inizio del Concilio in una prospettiva di grande attualità e ricca di suggestioni. Mentre mi rammarico di non poter essere presente all'inizio dei lavori, sono grato per l'attenzione e mi auguro di poter godere dei risultati della settimana di studio attraverso la successiva pubblicazione degli atti. A lei e a tutti i relatori il mio cordiale saluto, unito all'augurio di un proficuo lavoro. Giovanni Maria Sartori. E c'è un telegramma del presidente della provincia, Carlo Andreotti. Causa improrogabili impegni precedentemente assunti, sono impossibilitato a intervenire ad apertura 38ª settimana di studio dedicata a il Concilio di Trento il Moderno. Stop. Colgo l'occasione per ringraziarla per l'invito. Desidero far pervenire il mio miglior augurio di buon lavoro. Carlo Andreotti, Presidente. Das sind die Grußadressen der beiden höchsten Autoritäten hier im Lande. Und wir freuen uns, dass auch der Erzbischof und der Präsident der Provinz uns zur Kenntnis nehmen und uns gute Wünsche schicken. Jetzt gebe ich das Wort an Herrn Prodi für seinen Vortrag, seine Introduzione, il Concilio di Trento, di fronte alla politica e al diritto moderno. Si muoveranno i lavori della settimana. Quindi chiedo scusa della durata che però penso debba rientrare al di sotto dell'ora accademica o poco. E quindi casomai taglierò un po' di cose, essendo poi la relazione anche in distribuzione. Apriamo i lavori di questa nostra 38ª settimana di studio sul Concilio di Trento e il Moderno, con una tensione e un'aspettativa del tutto particolare. Per l'importanza delle motivazioni che ci hanno spinto a questa scelta, nel percorso di ricerca del nostro istituto e per la rilevanza dei problemi che ci accingiamo ad affrontare insieme. Speriamo che questa tensione e questa aspettativa non mettano a rischio il carattere seminariale e non di convegno di questa nostra settimana di studio, perché al centro della nostra attenzione non sono tanti risultati scientifici che possono essere riversati dall'esterno attraverso relazioni e comunicazioni, quanto l'incontro e la discussione nella riflessione di esperti e giovani ricercatori che riguardano i culturali tedeschi italiani, alla cui integrazione è finalizzata la nostra stessa esistenza come istituto. L'occasione prossima della scelta del tema è data dal 450° anniversario, come è stato detto, dell'apertura del Concilio di Trento, avvenuto il 13 dicembre 1545. L'Istituto di Scienze Religiose, il nostro gemello, ha progettato un convegno internazionale destinato ad una riflessione sulla storia interna del Concilio nella prospettiva teologica ed ecclesiologica del terzo millennio, e noi abbiamo pensato di affiancare a questo una settimana di studio sul significato del Concilio visto da di fuori, von außen, in relazione alla genesi del mondo moderno. In realtà questo incontro rappresenta un nodo centrale di tutta la nostra storia, questa settimana, di un lungo cammino di ricerca che ha caratterizzato tutta la vita dell'Istituto dalla sua origine ad oggi. Basta ricordare la grande figura di Hubert Yedin, cofondatore e nostro primo presidente. Sin dai primi progetti e dalle prime discussioni, il grande storico del Concilio, del quale io sono stato discepolo ormai tanti anni fa, dal 1954, una vita, ha visto strettamente intrecciata la nascita del nostro istituto all'avvenimento che ha inserito Trento nel circuito della grande storia dell'Europa e dell'Occidente. Quindi la nostra origine, il nostro sviluppo è legato sostanzialmente alla storia del Concilio di Trento e la stessa biblioteca di Yedin è depositata a Trento, come loro sanno, a disposizione dei nostri istituti. Non posso non riprendere qui le parole con le quali Hubert Yedin apriva la settimana di studio dedicata nel 1977, quindi ormai tanti anni fa, quasi 20, al Concilio di Trento come crocevia della politica europea. E qui entriamo appunto nell'oggetto specifico del nostro tema. Diceva Yedin, quindi l'oggetto del nostro seminario non è l'avvenimento ecclesiastico, ma l'inserimento di questo avvenimento nell'ambito della politica europea del XVI secolo. Questo ci induce ad un modo di considerazione unilaterale, ma non sbagliato. Cioè il nostro punto di vista anche oggi è unilaterale, non vogliamo studiare tutto il Concilio. Ma, come diceva Yedin allora, ci limitiamo ad un punto di osservazione, non unilaterale. Sarà dimostrato l'influsso decisivo che la grande politica delle potenze europee ebbe sulla convocazione e lo svolgimento del Concilio e viceversa l'influsso del Concilio su di essa. Così diceva Yedin appunto nel 1977. Noi abbiamo cercato di continuare su questa traccia, dedicando innumerevoli incontri e pubblicazioni in questi anni ad un tema che con il passare degli anni è apparso sempre più attuale e più ampio in rapporto alle nuove problematiche sviluppate dalla storiografia negli ultimi decenni relativamente al processo di confessionalizzazione e di disciplinamento sociale che ha caratterizzato la nascita dell'Europa moderna. Non sto a rifare questo percorso storiografico, perché ciò occuperebbe gran parte del tempo di questa introduzione e non è nemmeno nella mia intenzione fare un'introduzione di storia della storiografia. La stessa presenza qui del professor Wolfgang Greiner, al quale va tutta la nostra riconoscenza per aver progettato e costruito insieme a noi questo incontro, dispensa da qualsiasi necessità di presentare rassegne di questo tipo. Noi tutti ci siamo nutriti delle sue intuizioni e delle sue proposte di ricerca e credo che anche oggi ciò che egli ci dirà costituirà per noi un punto di partenza per un futuro cammino. Dopo alcune premesse di metodo, tese a chiarire il senso e i limiti del mio intervento, cercherò di avanzare alcune ipotesi o tesi interpretative derivate appunto dal lavoro collettivo di questi anni e destinate, spero, ad essere discusse e approfondite in questa settimana e anche nel futuro più lontano. Il mio compito specifico è quello di introdurre nella riflessione sul Concilio di Trento l'aspetto della politica e del diritto, dal punto di vista di una storia costituzionale, per far subsistere, intesa nel senso più pieno, cioè come ricerca degli elementi non soltanto formali o istituzionali, nel senso più esterno, ma anche interni e profondi, che hanno caratterizzato lo sviluppo di quel mondo che noi ora, prendendo sempre più le distanze, denominiamo come moderno. Il nostro punto di vista, come dicevo ieri, unilaterale, cioè è quello della storia, diciamo, il mio punto di vista della storia costituzionale. Un primo chiarimento, quindi, rispetto alla settimana stessa del 1977, deriva dal fatto che la nostra attenzione verte su un concetto molto più ampio di politica. Comportamenti antropologici del modo di concepire e di praticare la politica. Una seconda premessa, forse inutile ma che è meglio esplicitare per evitare equivoci che potrebbero sorgere da una lettura affrettata del titolo, nel quale la E di congiunzione, il Concilio di Trento e il moderno, la E vuole avere solo il valore di congiunzione e di nient'altro. Il nostro atteggiamento mentale non è quello di esaltare o sottolineare un ruolo particolare del Concilio in questo processo di modernizzazione, ma di cogliere le interrelazioni in tutte le direzioni. La seconda opzione metodologica, quindi di carattere generale, è di vedere l'avvenimento del Concilio di Trento all'interno del processo di modernizzazione che ha coinvolto in modo particolarmente alcuni secoli fa la società e la politica europea in relazione alla genesi dello Stato moderno. Una terza premessa di metodo è che diamo per scontato che il processo di modernizzazione dell'Europa, appunto, nei secoli che qui studiamo, abbia il proprio epicentro in quel movimento di Entzauberung, di demagificazione del mondo, secondo le intuizioni dell'inizio del secolo di Max Weber e Ernst Troeltsch, il cristianesimo occidentale, cioè, è coinvolto nella genesi del moderno. E questa è un'affermazione molto sintetica e schematica, che ovviamente non è possibile qui sviluppare, cioè non rappresenta soltanto un peso, un ostacolo da superare, ma anche un protagonista di questo processo sul piano intellettuale e sul piano istituzionale, a partire dalla rivoluzione papale, come è stata definita, del secolo XI, con tutte le contraddizioni, compromessi, eccetera, che ci possono essere. Così pure riteniamo impossibile una storia del cristianesimo che non affronti il problema della Chiesa o delle Chiese come uno dei fattori costituzionali dello sviluppo dell'Occidente, ma si limiti ad una visione puramente interna, almeno nella misura in cui consideriamo la storia della Chiesa una disciplina storica. Cioè, noi vogliamo studiare in queste interrelazioni, nell'essere storico, insomma, ecco, della Chiesa. Accenniamo soltanto, per far comprendere il senso di questo breve accenno, al seminario del giugno 1985 che tenemmo qui all'istituto, anzi non qui perché eravamo ancora a Villa Tambogi, a Villa Ciano, su cristianesimo e potere, che fu in qualche modo una tappa importante in questo cammino di ricerca che anche oggi ripercorriamo. Un convegno che è stato una delle tappe più significative di questo nostro percorso, anche perché ciò ci permette di ricordare amici come Italo Mancini e Roberto Ruffilli, che allora partecipavano attivamente e che ora non sono più tra di noi. Una premessa che si deduce dalle precedenti, ma che è opportuno esplicitare, è che non è nostra intenzione affrontare qui il problema generale dei rapporti tra la Chiesa e il mondo moderno. Faremo solo dei sondaggi, insomma, ovviamente. Il quadro generale è troppo grande e noi vorremmo circoscrivere il tema ad alcuni problemi più direttamente connessi con il fatto conciliare. Fatte queste brevi premesse, veniamo quindi alle tesi o alle ipotesi sulle quali abbiamo cominciato a lavorare, e qui appunto il plurale non è un plurale maiestatico, ma vuole essere proprio un plurale di tipo collettivo per coloro che hanno lavorato qui nell'istituto o che in qualche modo sono a noi collegati da tanti anni e che in gran parte sono qui presenti. All'inizio del Cinquecento la Repubblica Cristiana Medievale appare ormai tramontata in favore di un sistema di stati concorrenti che tendono ad assumere o direttamente o indirettamente, con diverse formule di delega da parte della Curia Romana, il controllo sulle chiese dei loro territori. Per illustrare questa affermazione, un po' semplicistica ma credo abbastanza pregnante, potremmo e dovremmo portare decine di pagine prese anche dai volumi pubblicati dal nostro istituto. Per farmi capire, in sintesi preferisco citare alcune affermazioni del professor Königsberg che io trovo particolarmente felici anche per il loro carattere provocatorio, perché urtano un po' tutte le frasi fatte che si trovano anche nei manuali di storia. Scrive Königsberg: nel tardo XV secolo, nel primo del XVI, cioè prima della Riforma, il papato fu forzato ad abbandonare il potere che ancora deteneva sulla struttura amministrativa e sul personale delle chiese locali alle grandi monarchie. Ma anche i concordati o altri accordi tra i papi e i principi non produssero un nuovo stabile equilibrio. I principi cattolici, sostenuti entusiasticamente dai loro sudditi, clero e università compresi, continuarono la loro azione aggressiva contro le prerogative papali e l'unità effettiva della Chiesa. Dal nostro punto di vista, continua sempre Königsberg, il significato più profondo della sottrazione di Enrico VIII di Inghilterra all'obbedienza di Roma consiste precisamente nella sua motivazione non teologica e non religiosa. Gustavo Vasa, re di Svezia, ruppe con Roma per una strategia politica diretta contro i suoi nemici, il re di Danimarca e l'arcivescovo di Uppsala. E poi c'è la frase, appunto, che è la frase, diciamo così, scandalosa, insomma, ecco, di Königsberg, su cui volevo appunto puntare l'attenzione per la discussione: anche senza Lutero le possibilità di sopravvivenza dell'unità della Chiesa erano minime. Cioè, era una precostituita frammentazione dell'organizzazione ecclesiastica per ormai l'invadenza del nuovo Stato moderno, delle nuove, chiamiamo Stato moderno, insomma, delle monarchie e degli Stati in crescita. Königsberg continua poi con l'affermazione paradossale, ma non troppo, che fu la Riforma, con il suo radicale attacco alla tradizione, a provocare un soprassalto in difesa di ciò che nella vecchia e universale Chiesa era compatibile con il nuovo sistema politico. Cioè, dice, in effetti lo shock della Riforma è stato proprio l'opposto di quel che si crede, perché ha provocato appunto un soprassalto dell'universalità ecumenica in senso cattolico, e quindi ha portato al Concilio di Trento e a questo percorso, insomma, che oggi studiamo. In effetti molte potenze videro solo nell'accordo con Roma la possibilità di far fronte a un movimento che altrimenti avrebbe portato ad esplosioni incontrollabili, come testimoniamo le vicende interne al mondo tedesco con la guerra dei contadini, o almeno a tensioni sociali pericolose. E quindi c'è stato anche uno shock in questo senso di un avvicinamento a Roma di fronte alle paure appunto derivanti da queste sollevazioni di tipo radicale e alle tensioni sociali pericolose. Abbiamo cercato di studiare in questo processo il periodo delle riforme come strettamente congiunto al periodo precedente, come un cammino che giunge ad un bivio. Ricordo alcuni volumi dell'Istituto, appunto, sulle istituzioni ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, e il fisco e religione e Stato nell'età confessionale. Ecco, sono state due nostre tappe precedenti che hanno teso a studiare questo modificarsi dell'assetto costituzionale dei rapporti Chiesa-Stato in Europa prima della Riforma. Il periodo delle riforme e quindi ci è apparso come strettamente congiunto al periodo precedente e come un cammino che giunge poi ad un bivio. le direzioni saranno molto diverse, opposte saranno le soluzioni nei paesi che aderiranno alla riforma o nei paesi che rimangono uniti a Roma, ma esse si iscrivono all'interno di un medesimo percorso verso la costruzione delle chiese territoriali. Questa preponderanza della politica è emersa in modo visibile nelle ricerche sulle riforme del clero secolare e regolare da parte dei principi del Quattrocento, sul progressivo controllo dello Stato sui benefici e sulle strutture ecclesiastiche, sulla tassazione o l'espropriazione dei beni clericali. Quindi prima della riforma noi abbiamo tutto questo lungo processo di cui, tra l'altro, il professor Prosperi è stato uno degli indagatori, in anni passati. Ma al di là di questo si è cominciato a vedere il rapporto Stato e Chiesa non più come un rapporto di alterità, dominato soltanto da conflitti di potere e di giurisdizione o da compromessi tra due entità opposte e rivali, ma come un rapporto ben più complesso nel quale lo Stato moderno, nel suo periodo di gestazione, penetra l'istituzione Chiesa anche nel suo nucleo più impenetrabile, il papato, mentre a sua volta ne è impregnata assumendo caratteristiche e funzioni proprie della Chiesa medievale. In questo è detto un po' troppo concisamente, ma insomma vuol dire questo, che in genere appunto sui manuali eccetera si parla sempre di un conflitto tra Stato e Chiesa come se fosse entità diverse, ecco, mentre la storiografia degli ultimi 20 anni ha proprio messo in luce questo, cioè che noi abbiamo una Chiesa che in qualche modo partecipa della nascita dello Stato, questa formazione del papato come principato territoriale che diventa appunto così importante nell'età moderna, il Papa Re, con tutte le conseguenze di questa doppia figura, e dall'altra abbiamo lo Stato che assume dalla Chiesa funzioni fondamentali per la vita dell'individuo, dal processo educativo al processo di normazione etico-morale, eccetera, eccetera, fino alla morte. E quindi abbiamo queste due entità che si compenetrano a vicenda, non sono due realtà semplicemente in conflitto. E questo direi che è stata una delle cose più importanti, se vogliamo prendere il termine, il nostro precedente seminario del 77 ad oggi. In questo quadro, che caratterizza i decenni che precedono la data che oggi vogliamo ricordare dell'inizio dei lavori conciliari, è sbagliato, come si è fatto troppo sino ad ora, nonostante il grande affresco della storia del Concilio di Trento di Hubert Iedin, vedere la lotta per il Concilio unicamente come un contrasto tra riformatori che vogliono purificare la Chiesa dagli abusi e dall'incostazione del Medioevo e i conservatori che si oppongono in difesa degli interessi e dei privilegi, in particolare della Curia Romana. Anche qui ci troviamo di fronte a una schematizzazione volgare, insomma, che prevale ancora nei manuali, insomma, la Chiesa corrotta dagli abusi medievali e appunto la lotta tra i conservatori curiali che difendono i privilegi della curia e i riformatori. In realtà la situazione è molto più complessa proprio per quella evoluzione storica precedente di cui abbiamo parlato. Una lettura politica del ritardo del Concilio di Trento rispetto alle prime richieste di convocazione del Concilio, appunto, si apre solo nel 1545, e pensate appunto alle 95 tesi di Lutero del 17, quindi tutti questi anni che sono passati prima della convocazione del Concilio. Quindi una lettura politica del ritardo del Concilio di Trento, lettura che non vuole essere onnicomprensiva, ma che al contrario, è meglio ripeterlo ancora una volta, sa di essere parziale, in rapporto alla nascita dello Stato moderno, deve essere quindi più complessa che non di rinvio alle responsabilità dei conservatori corrotti o alla rivalità delle grandi potenze Francia e Impero. Anche il testo che per decenni abbiamo letto, giustamente, come uno dei più alti della Riforma Cattolica, il Libellus ad Leonem Decim dei Camaldolesi, Querini e Giustiniani, del 1512, quindi precede di pochi anni la Riforma, appare dal punto di vista politico rivolto più all'indietro che al futuro nel sogno impossibile della rinascita nei nuovi orizzonti planetari derivanti dalle scoperte geografiche della Repubblica Cristiana. Il problema è che la Repubblica Cristiana appunto era venuta già a me. In realtà lo sforzo della Chiesa di Roma in questi decenni è teso a togliere motivi di risentimento, a raffreddare gli attriti più acuti di interessi, pur concedendo il meno possibile ai nuovi poteri, ai nuovi sovrani. Il tentativo da parte di Roma è di controllare il processo di disgregamento, insomma, attraverso la politica delle trattative dei concordati, permettendo ai principi di sviluppare il controllo sulle chiese territoriali senza produrre scissioni definitive, come invece si sviluppa poi in Inghilterra con la riforma anglicana. Senza indulgere a condizionali ipotetici, è realistico pensare che la Chiesa di Francia si sarebbe staccata completamente da quella di Roma come quella inglese se il concordato del 1516 tra Leone X e Francesco I non avesse sottomesso per i decenni e per i secoli futuri l'episcopato francese alla monarchia, dando al re il potere sostanziale, salvo veto del Papa, di scegliere i propri vescovi. Tali accordi divennero sempre più difficili dopo l'alleanza di Lutero con i principi tedeschi del 1525, perché naturalmente con le leghe tedesche, Smalcalde, eccetera, si formano dei rapporti di potere diversi. Con la costruzione delle chiese territoriali tedesche e lo sviluppo poi della nuova religione civica di Calvino. In chiave di storia costituzionale si trattava di dare una nuova forma al dualismo cristiano sul piano istituzionale rispetto allo schema superato papato-impero dopo la fine dell'illusione conciliarista, cioè dopo la fine dell'illusione di fondare appunto una nuova unità della Repubblica cristiana col metodo conciliare e il fallimento del dualismo tra papato e impero che aveva appunto dominato l'epoca precedente. Il Concilio di Trento, e questo è quello che è la tesi da discutere, insomma, che ci importa a fin di questo breve excursus, può aprirsi soprattutto può concludersi, perché non per niente dura dal 1545 al 1563. Non è il problema di lungaggini, certo, guerre, interruzioni, la battaglia del Mühlberg, tutte queste cose che sappiamo, ma non è solo un problema di ritardi occasionali in questa lunga durata del Concilio. Il problema è che può concludersi in qualche modo soltanto quando in Europa il processo di statalizzazione è maturato in modo da rendere possibile un nuovo equilibrio fondato sul rapporto tra il papato, anch'esso come principato, non più in gara diretta per il predominio in Europa, e i sovrani che rimangono i grandi protagonisti della scena politica. Non per nulla poi in mezzo c'è il compromesso di Augusta del 1555, che appunto è in mezzo al Concilio di Trento, ma che determina con il famoso cuius regio eius et religio, in qualche modo una prima ratifica di questo nuovo assetto dell'Europa, che appunto poi permette in qualche modo, come detto, la conclusione anche del Concilio di Trento. Questo implica un mutamento interno anche nella Costituzione della Chiesa. Il Concilio di Trento, quando si apre, non è più un'assemblea della cristianità come i concili del tardo medioevo, della Repubblica cristiana, insomma la cristianità intesa come insieme politico-religioso, e come i concili del tardo medioevo nei quali le nazioni erano rappresentate ed esercitavano un ruolo diretto non solo attraverso i loro episcopati ma anche attraverso le grandi corporazioni, i capitoli cattedrali, le università, eccetera. Ma il Concilio di Trento si apre con un'assemblea di ecclesiastici che ha i propri baricentri all'esterno nel papato, rafforzato dai nuovi ordini religiosi e nei sovrani. Qui c'è Monsignor Roggi che all'inizio, proprio il suo primo libro è sulle nazioni al Concilio di Trento, appunto, che studia questo nella prima fase del Concilio, questo passaggio, il passaggio più delicato, insomma, della prima fase in cui c'è ancora in qualche modo il ricordo, più che ricordo, la presenza di questa struttura delle nazioni come supporto della cristianità che si unisce al Concilio e appunto in realtà questo entra in crisi perché, come abbiamo visto prima, la situazione politica è del tutto diversa in Europa. Questo processo di trasformazione appare totalmente compiuto nell'ultima e conclusiva fase del 1562-63. Un Umberto Mazzone affronterà oggi pomeriggio proprio nella sua relazione il problema dei meccanismi assembleari, del rapporto tra l'assemblea stessa da una parte, i legati papali come presidenti e gli ambasciatori dei principi dall'altra. Cioè è appunto la struttura che cambia, perché abbiamo appunto in realtà al centro l'assemblea, poi i presidenti, i cardinali legati del pontefice e gli ambasciatori dei principi che in qualche modo hanno una posizione laterale. Sentiremo da Mazzone quindi come è cambiato rispetto al periodo precedente il metodo di lavoro, ma penso si possa dire che il Concilio sia stato ad un tempo più libero e spirituale, come si diceva allora, al proprio interno, con i vescovi e i rappresentanti dei grandi ordini religiosi come protagonisti, e condizionato invece pesantemente dall'esterno, nella impostazione dei lavori, nel corso dei medesimi, dalle diverse esigenze del papato e degli stati. L'analisi dei tanti elenchi di impedimenta o gravamina, come si diceva allora, presentati dai vescovi contro gli ostacoli che si frapponevano alla loro azione pastorale, impedimenti derivanti dalle interferenze della curia romana da una parte, dai principi secolari dall'altra, sono la chiara espressione di uno smarrimento di fronte ai nuovi assetti del potere. In sintesi, qui voglio dire che la prima novità nell'adeguamento del Trentino al moderno è la composizione stessa dell'assemblea, che si presenta per la prima volta come un'assemblea ecclesiastica, sempre più dal primo al terzo periodo, parallela e distinta dall'organizzazione politica. Non siamo in presenza dell'elaborazione di una teoria della Chiesa, di un'ecclesiologia in senso compiuto, ma credo si possa intravedere un mutamento di fatto che ci porta fuori dal Medioevo. Il dualismo si sposta anche visivamente dalla concorrenza dei due ordinamenti nella guida della stessa Repubblica Cristiana, dalla concorrenza di due sfere, del papato e dell'impero, ad una nuova concorrenza di due sfere che tendono a definire nell'ambito dello stesso spazio territoriale competenze diverse. Cioè, appunto, un'altra tesi da discutere questa, che la rivalità non è più la rivalità delle supreme autorità all'interno di una Repubblica Cristiana, ma diventa la rivalità di sfere di competenza nello stesso spazio territoriale, di sfere di competenze diverse. Ciò proprio mentre con la pace di Augusto del 1555, il trionfo del principio del quius regio e ius et religio, l'Europa arrivava al punto più vicino, dopo l'esperienza dell'impero carolingio, all'unificazione della politica con la religione, alla sacralizzazione del potere. Cioè, voglio dire che se l'impero carolingio rappresenta la punta più alta di questo tentativo di sacralizzazione della politica, di identificazione dell'imperatore con il sacro, un altro punto acuto in questa tendenza l'Occidente l'ha avuto proprio in questo periodo con l'unificazione del potere religioso con quello politico negli stati nati dalla riforma e quindi anche nei poteri delegati ai sovrani da parte di Roma nei paesi rimasti cattolici. La clericalizzazione del Concilio e quindi anche della Chiesa costituisce una prima risposta alla provocazione del mondo moderno. In alternativa alla proposta di Lutero, che riconosce il nuovo potere facendo appello di fronte adesso alla libertà del cristiano, alla coscienza individuale, la Chiesa cattolica a Trento costruisce una sua coscienza collettiva con l'eliminazione delle incertezze dogmatiche e l'affermazione del principio della cura animarum come suo compito specifico ed unico. Quindi la cura animarum non è soltanto un problema di purificazione della Chiesa, eccetera, ma è la costruzione di una sfera di competenza, diciamo così, nuova di fronte allo Stato che cresce, e ad una politica che tende a inglobare l'uomo nella sua totalità. Questo è il problema, insomma, il grandissimo problema di fronte a cui si trova il Concilio di Trento. Ecco, che dà a questo una risposta, io credo, principalmente costruendo appunto questa, diciamo così, competenza specifica della Chiesa che poi appunto si trasforma poi anche nel processo di confessionalizzazione, eccetera. Il dualismo del cristianesimo occidentale trova nuove strade, quindi pagando prezzi molto alti, sia nelle compromissioni che nelle chiusure in difesa dei privilegi clericali, ma riesce a porre con chiarezza il tema della distinzione delle sfere di competenza. Forse questa è addirittura la tesi centrale da discutere, per quel che mi riguarda, in questa settimana dal punto di vista politico, insomma, ecco, cioè la fertilità, il carattere sempre innovativo che caratterizza il moderno, è stato detto da uno storico americano, Berman, il carattere in qualche modo rivoluzionario della storia occidentale, che distingue la storia occidentale da tutte le altre storie delle civiltà planetarie che sono in qualche modo statiche, ecco, questa capacità di modificare continuamente i propri ordinamenti, eccetera, che Berman vedeva originare appunto dalla rivoluzione papale, dalla riforma gregoriana del secolo XI e che ha dato questo tono dinamico a tutti i secoli successivi della storia dell'Occidente, ecco, credo che abbia in Trento una tappa molto importante in questo rifiuto appunto di un'identificazione del sacro del potere che avrebbe in qualche modo riportato ad una situazione di tipo statico. Ecco. Invece il cristianesimo occidentale, in fondo anche attraverso Trento, con tutti i compromessi e tutti i prezzi che sono stati pagati, ma insomma mantiene questo seme di dualismo e conquistando questo nuovo dualismo di fronte allo Stato moderno, cioè appunto una competenza, un'autorità nella sfera della coscienza, nella sfera della salus animarum, insomma, ecco, secondo l'espressione del tempo. Ciò diventa molto importante nello studio del periodo post-conciliare, sia nello sforzo del papato per detenere il monopolio della sua applicazione, sia nell'inserzione parziale e condizionata della legislazione conciliare all'interno delle strutture statali. Anche la grande controversia che si apre con la storia di Paolo Sarpi deve essere in un'ottica letta in quest'ottica più complessa. Sarpi accusa il papato di essere stato innovatore e di aver sconvolto la struttura della Chiesa, non di essere stato conservatore, perché Sarpi accusa il papato di aver sconvolto un ordinamento a detrimento della sacralità dello Stato. Cioè quello che Sarpi difende è in fondo la definizione del sovrano come vescovo ad extra della Chiesa, insomma, del sovrano come Stato, insomma. Quindi adesso è complicata la cosa, quindi non voglio in questa introduzione andare più in là, ecco, ma la lettura di Sarpi che viene fatta è una, molto spesso una lettura deformata, nella misura invece in cui il Sarpi è appunto un sostenitore estremamente forte del potere del sovrano come detentore del ius circa sacra, come diceva, insomma, ecco, cioè detentore delle chiavi del potere della disciplina ecclesiastica, insomma, ecco, e accusa il papato di innovare, di appunto essere un elemento di perturbazione di questo ordine. Va bene, ma un solo accenno al piano un po' teorico di questa queste riflessioni. Dal punto di vista teorico, l'elaborazione della nuova concezione del rapporto tra politica e religione viene saldamente impostata nei decenni precedenti il Concilio, durante il Concilio stesso, nelle opere di Tommaso de Vio, il Gaetano, e dei suoi discepoli della scuola di Salamanca, Francisco Vittorio, Domingo de Soto, eccetera. Domingo de Soto poi è confessore di Carlo V e partecipante del Concilio di Trento, esperto teologo qui a Trento. Il quadro unitario del tomismo rimane fondamentalmente intatto, ma come una cornice al cui interno si riconosce una realtà del tutto diversa, la sovranità viene riconosciuta come valida in se stessa in relazione al fine umano della vita e della crescita dello Stato. Adesso cosa voglio dire qui? Abbrevio un po' la mia relazione perché andiamo fuori tempo, mi accorgo. Ecco, voglio dire soltanto questo, che la distinzione delle due sfere tra la politica e la regione, che il Concilio di Trento in qualche modo porta avanti sul piano della legislazione, della disciplina ecclesiastica, ha forti ripercussioni e anche ha forti radici dalla riflessione di questo periodo sul piano della teologia politica. Cioè, noi assistiamo al formarsi di un pensiero, seppure in partenza totale, autonomo. Quindi l'elemento fondante in questa bolla di una struttura alternativa clericale nella quale il voto speciale di obbedienza al Papa dei Gesuiti diviene l'espressione più estrema di una scala gerarchica che acquista una sua completa autonomia dal potere politico, anche se col potere politico appunto avviene a compromessi. In questa situazione viene a crearsi una vasta area di confine conflittuale che noi percepiamo ancora latente nei lavori conciliari, attraverso gli elenchi di impedimenta, come dicevo, eccetera, qui a Trento, e che scoprirà nei decenni e nei secoli seguenti con le controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato. Questa è una storia ben illuminata perché le controversie tra legalisti e curialisti hanno portato nei secoli successivi all'uso dell'indagine storica come arma di controversia. Cioè sulle controversie tra Chiesa e Stato si è scavato moltissimo proprio nella misura in cui la storia serviva per trovare armi contro l'immunità ecclesiastica o viceversa in difesa della libertas ecclesiae contro lo Stato, eccetera. Ma qui quello che volevo appunto, non so se sono riuscito a porre in rilievo, è che sotto questi terremoti di superficie che invadono tutte le pagine dei nostri manuali di storia ci sta un problema più sottostante, insomma, ecco, cioè della definizione di queste nuove sfere di competenza nella definitiva rinuncia alla conduzione unitaria della Repubblica Cristiana medievale. Quindi è qui che troviamo il moderno, insomma, ecco, in questa distinzione appunto tra una sfera della coscienza, in qualche modo, diciamo così, di cui la Chiesa, e non come Lutero ha proposto, il singolo cristiano si rende garante, insomma, ecco, e i nuovi poteri della politica, i nuovi poteri dello Stato che si sviluppano. Adesso vorrei solo fare due esempi concreti tratti dai lavori conciliari di queste tematiche più generali. Naturalmente sarebbe molto semplice, e poi gli esempi concreti li vedrete nel corso della settimana, nelle varie relazioni. Tra parentesi dico soltanto che ovviamente non trovate coperto dalle relazioni di questa settimana tutto il settore tutti gli esempi che si potrebbero fare sui rapporti tra Concilio di Trento e il moderno. Faccio solo un esempio macroscopico, cioè non parliamo per esempio dei libri parrocchiali, dei registri dei battezzati, dei matrimoni, dei morti, che sono un esempio lampante di quanto il Concilio di Trento abbia inciso nello sviluppo del moderno, mettendo alcune prime fondamenta dell'anagrafe nel senso occidentale, quindi anche delle scienze sociali come possibilità di studio, appunto, e anche più al di là di questo in senso antropologico, cioè di fissare l'uomo a una data di nascita, ad un luogo. E quindi a questo mutamento radicale, insomma, ecco, rispetto alla concezione della società che c'era in Medioevo. Vuol dire, questo è un tema che abbiamo lasciato fuori perché è già stato studiato da Yedin molto ampiamente, da altri, insomma, ecco. Ma ce ne sono tanti che sono lasciati fuori, ecco. Quindi ne esamineremo solo alcuni, insomma. Io mi limito riferito a due esempi molto diversi, insomma, ecco, che si riferiscono più al metodo dei lavori del Concilio, insomma, e uno, e in secondo luogo al cosiddetto tema della riforma dei principi, come fu discusso in Concilio, perché ci collega più da vicino appunto alla problematica di tipo politico-costituzionale. Il primo punto sui metodi di lavoro conciliare, non entro appunto in quello che poi ci dirà Mazzone, dico soltanto che la decisione di discutere in modo parallelo i problemi dogmatici e i problemi di riforma caratterizza tutto il Concilio dall'inizio alla fine. Voi trovate il decreto del Concilio proprio diviso in due parti, insomma, ecco. E quindi anche quando si citano, siccome i numeri coincidono, bisogna dire de reformazione se si intendono i decreti disciplinari, cioè anche nelle citazioni accademiche. Ma non è solo un problema accademico. È che per la prima volta a Trento, nella storia dei concili, appare una netta distinzione tra il piano delle definizioni dogmatiche e il piano della disciplina ecclesiastica, il piano del diritto positivo. Nei secoli precedenti questo sarebbe stato inconcepibile. Nessuno dei concili precedenti avrebbe mai pensato a dividere i propri deliberati in due piani. Ora, in Trento questa separazione porta, a mio avviso, ad una situazione di estrema tensione nella dottrina dei sacramenti, ove all'interno del mistero dell'incarnazione il divino tocca l'umano e diventa fatto visibile, quindi inevitabilmente sociale e politico. Cioè nella definizione dei sacramenti e nei decreti di riforma che ineriscono i sacramenti, questa separazione porta a dei problemi estremamente grossi durante tutti i lavori del Concilio. Insomma. Battesimo, confermazione, penitenza, eucaristia, matrimonio, ordine, estremunzione. Ecco, noi esamineremo per esempio qui il problema del matrimonio nella relazione della professoressa Azzari. Ecco, portano a questi punti di congiunzione col moderno, insomma, ecco. Particolarmente forte e visibile nella genesi del moderno è l'impatto della discussione sui sacramenti della penitenza, del matrimonio e dell'ordine sacro. Anche se poi altrettanto importante sarebbe l'analisi della discussione sul battesimo, eucaristia, sacrificio della messa, ma insomma siamo a parte. Non parlo della penitenza, confessione, del matrimonio, appunto perché sentiremo le relazioni di Prosperi e Zarri. Mi limito solo ad un esempio per far capire il senso del mio discorso di carattere più generale all'ordine sacro. La discussione che ha caratterizzato in modo drammatico l'ultima fase del Concilio, quella sull'istituzione divina dell'Episcopato, ha una forte valenza politica e non riguarda soltanto un rapporto interno tra Episcopato e Papato. In essa viene dibattuto un nodo analogo a quello che si presentava negli stessi anni nel campo della dottrina politica, con la discussione sugli iura immutabilia, cioè sui diritti naturali e sulle leggi fondamentali dello Stato che non potevano essere modificate dalla legislazione positiva dei sovrani. Cioè, quello che mi importa dire è che in Concilio noi abbiamo un dibattito in qualche modo parallelo a quello che avviene in campo politico. Cioè, ci sono, si afferma, delle leggi immutabili di diritto divino, di diritto naturale, che non possono essere toccate dalla legislazione positiva. E questo è il grande dibattito politico ed è il grande dibattito anche all'interno dell'Assemblea di Trento. La vittoria sostanziale della tesi pontificia, che non si poteva proclamare la residenza di diritto divino, la residenza dei vescovi, appare evidente nei canoni della 23esima sessione del luglio 62, nei quali si riconosce la successione apostolica dei vescovi e la loro superiorità rispetto ai semplici sacerdoti nel sacramento dell'ordine, ma si sottomette alla decretazione dei pontefici la struttura episcopale della Chiesa. La concessione dei nuovi poteri dei vescovi come delegati della sede apostolica e la decisione di considerare il dovere di residenza dei vescovi non di diritto divino ma di diritto umano, quindi dispensabile, perché il problema era questo, insomma, cioè che la legislazione positiva potesse appunto modificare questo diritto dovere, implicano la rinuncia a considerare come immodificabile il nucleo strutturale più profondo della Chiesa nel rapporto tra ordine e giurisdizione. Ciò così costituisce un perfetto parallelo a quanto avviene nello stesso periodo nello sviluppo della sovranità. Come il re, i sovrani d'allora, il sovrano può modificare con il suo intervento l'ordinamento senza essere impedito da leggi naturali o da norme fondamentali immutabili, così il Papa può avere il controllo assoluto dell'apparato ecclesiastico. Aggiungo una cosa che può essere solo una battuta, ma mi viene in mente quel delegato sedis apostolici con cui i vescovi ricevono nuovi poteri, insomma, di intervenire nell'ambito della loro potestà di giurisdizione. Mi sembra abbastanza analogo a quanto avviene in campo secolare, in campo politico, allora con lo sviluppo della figura del commissario, cioè del funzionario che non ha più poteri autonomi, ma che è in qualche modo il rappresentante del sovrano, quindi ha poteri delegati in quanto rappresentante del sovrano. Ma appunto per far vedere come le due sfere tendono a ristabilirsi su basi nuove. E questo compromesso sotterraneo che apre forse la strada nella vittoria del diritto positivo nelle rispettive sfere politica e religiosa, ai più noti compromessi sulle riforme disciplinari e quindi al superamento delle tensioni e alla conclusione del concilio. Mi avvicino a dire la verità. Allora, quindi probabilmente taglio l'ultimo punto, che era quello sul decreto di riforma dei principi, il famoso decreto di riforma dei principi di cui si parlò anche qui nel convegno del 1977 che ricordavo prima. Rimane questo fatto, cioè che mentre all'inizio i cardinali legati propongono un testo in cui viene stabilito appunto che i principi devono sottostare alle leggi della Chiesa, eccetera, eccetera, al termine della discussione per l'opposizione dei vescovi francesi e dei vescovi spagnoli, si arriva invece ad un testo estremamente edulcorato in cui si chiede soltanto, si esortano i principi a rispettare i diritti della Chiesa e poco più. Cioè è il passaggio più importante del 1563, dell'anno di conclusione, è il passaggio che permette di arrivare alla conclusione del concilio, ma il passaggio appunto che mostra come per arrivare alla conclusione del concilio e quindi affermare la propria identità nella propria sfera, la Chiesa rinuncia definitivamente ad una legislazione comune e ad un potere comune tra potere politico e potere religioso per il recupero della Repubblica Cristiana. Il problema è che si apre fin dalla chiusura del concilio, quindi proprio quella della definizione di due ambiti di giurisdizione che appaiono ormai completamente diversi. Cioè il fallimento del decreto sulla riforma dei principi, a mio avviso, è la testimonianza del compimento di questa biforcazione, insomma, che è avvenuta. Ma appunto qui ho saltato un po'. E salto, a dire la verità, anche i problemi del post-concilio, insomma, ecco, cioè questo si trasforma poi, ma cercherò di svilupparlo, un intervento che farò nel seminario di fine settembre, che è già stato ricordato, sul fatto che il diritto canonico si trasforma sempre più in un diritto ecclesiastico. La Chiesa post-tridentina cercherà di difendere l'aggancio tra la normativa di coscienza e la sfera giuridica attraverso l'apparato dei casi riservati, delle scomuniche generali, della bolla in cena domine e con un distorto uso dello strumento inquisitoriale. Ma non mi sembra che questa operazione abbia avuto successo nello scopo di trasferire sul piano del diritto la normativa sulla coscienza. In realtà quella che la Chiesa riesce a difendere è appunto il controllo, l'autorità sulle coscienze. Mentre invece il diritto canonico tende a trasformarsi in un diritto in qualche modo sempre più positivo, sempre più diretto alle regole, diciamo così, interne o alle regole statali della politica ecclesiastica fino al codice di diritto canonico del 1917. Ecco, adesso è l'ultima pagina e quindi concludo. Ad ogni modo queste cose le potete trovare, direi, più distese nella relazione scritta, insomma, e quindi dopo poi. E ora di concludere, anzi di incominciare i lavori dopo questi accenni, che nel migliore dei casi hanno voluto dire un'apertura di problemi, non una soluzione. Penso però che la nostra riflessione sia davvero importante in questo momento storico. La partecipazione alle ultime celebrazioni tridentine, cioè il 400° anniversario della chiusura, avvenuta nel 1963, di cui Monsignor Roger è stato allora magnifico gestore, appare nei ricordi e negli interventi come una rilettura del Tridentino nell'ottica dell'aggiornamento del Concilio Vaticano II, ricordando proprio quell'anno, quegli anni, insomma, si viveva la commemorazione di Trento con questi occhi e pieni, della realtà del Vaticano II. I temi centrali della discussione erano quelli delle chiese locali, della collegialità episcopale, della partecipazione dei laici, tutti temi ancora fortemente innestati nella risposta che il Concilio di Trento aveva dato ai problemi del mondo moderno. Ha ragione, quindi, nella conclusione di quel convegno di Trento del 63, Alphonse Dupron centrava le sue riflessioni sul rapporto tra il Concilio di Trento e la modernità. È una conclusione, quella di quel convegno lì, veramente straordinaria, questa di Dupron. A Trento, diceva, è nata una chiesa riformata come società gerarchica ecclesiastica, che è riuscita a mantenere la distinzione tra sacro e potere che caratterizzerà i secoli dell'età moderna. La storia del Concilio di Trento, diceva Dupron, è profondamente inserita nel dramma moderno che segue la rottura dell'ordine spirituale e sociale preesistente. Il Concilio di Trento, quindi, esso può essere definito come concilio di ambivalenza. Questa era la chiusura della la conclusione del convegno del 1963. Quindi il Concilio di Trento è concilio dell'ambivalenza. Sono passati pochi decenni, ma il quadro intorno a noi sembra ormai radicalmente mutato. Ora stiamo faticosamente uscendo dal leone dello Stato moderno, dall'età dei concordati e delle chiese territoriali. Anche nella piccola Italia i vescovi dal 1984 non giurano più fedeltà allo Stato. Ci sono fenomeni estremamente vicini a noi che segnano la fine di quest'epoca. Ci troviamo di fronte a situazioni del tutto nuove che provocano vertigini nel rapporto tra potere e sacralità, tra etica e diritto. Il dualismo tra cristianesimo e potere riemerge in nuove forme e con protagonisti storici diversi. Una riflessione quindi sull'ambivalenza tridentina è ancora più importante, non per prevedere il futuro, che cosa che nessuno vuole o può fare, ma per renderci più capaci di leggere la nostra attuale ambivalenza. Grazie. Thank you.